Storiacce di Raffaella Calandra. Oggi, nel momento in cui parliamo, davanti alla sede dell'UNESCO a Parigi c'è la ricostruzione fedelissima del toro di Nimrud, ovvero di quell'animale simbolico dalla testa umana che difendeva la grande capitale Assira. In questo momento nella sede della FAO c'è questo pezzo molto importante del soffitto del Tempio di Bel a Palmira, che pure i militanti di Daesh hanno cancellato. Ricostruite dopo la distruzione, riportate in vita dopo le guerre, le furie del terrorismo o i saccheggi di ogni genere, le opere d'arte rivivono anche grazie alla tecnologia. Stampanti in 3D per tornare ad ammirare i colonnati distrutti di Palmira o il toro di Nimrud. Video in alta definizione per riavere di nuovo il Caravaggio rubato ai boss o il peristilio distrutto dal Vesuvio. Visori in 3D per tornare a camminare nelle terme di Caracalla. E tra ologrammi, proiezioni e mostre sensoriali, tra l'altro così i più giovani si avvicinano all'antico. E da qui parte questa puntata di Storiacce. Prima i turisti vengono a Palmira per vedere la rovina di Palmira. Adesso che c'è? La rovina della rovina di Palmira. Che c'è? Non c'è il potere di vedere Palmira o quella importanti monumenti di Palmira. Non c'è. Non immagino Palmira o quella monumenti. La perla della Siria, divenuta simbolo delle distruzioni del califfato, ma ora anche dimostrazione di come i terroristi non debbano avere l'ultima parola. Gli antichi templi si possono in parte filologicamente ricostruire e nel frattempo anche la tecnologia aiuta a tornare ad ammirare quei gloriosi colonnati fatti saltare in aria con l'esplosivo. E per questo, da presidente dell'associazione Incontro di Civiltà, Francesco Rutelli volle una mostra evento con le ricostruzioni in 3D delle opere distrutte e ora lavoro per fare altrettanto anche in Iraq. La tecnologia ci aiuta da un lato per ricostruzioni fisiche in formato 1:1 di monumenti che non esistono più, che non si potrebbero vedere. Ci aiuta poi dal punto di vista del censimento, della catalogazione del patrimonio, perché oggi noi possiamo avere dei riferimenti reali su ciò che esiste, soprattutto se è minacciato da conflitti, minacciato da disastri naturali, solo se avremo un censimento attendibile, e quindi questo lo si fa con laser scanner, con le riprese aeree, con il satellite, con altre tecnologie tridimensionali. Infine, però, la tecnologia e la sapienza dei restauratori, dei tecnici, ci aiuteranno per le ricostruzioni reali, ovvero dove c'è stata una distruzione, noi non possiamo lasciare l'ultima parola ai terroristi, dobbiamo evitare l'effetto di Bamiyan, dove i talebani distrussero i Buddha. Buddha giganti lungo la via della seta, e dove sono rimaste delle caverne, dei buchi in questa gigantesca montagna, quell'enorme cavità sta a testimoniare che finora sono i talebani ad aver vinto. Questo non lo possiamo accettare. Come avvenne per i Buddha, per i talebani, così anche contro capitelli e templi romani si è accanita la furia distruttiva di Daesh, che tra l'altro rese quei meravigliosi templi quinta teatrale di esecuzioni spietate, a cominciare da quella di Khaled el-Assad, il direttore del sito archeologico di Palmira, affiancato alla guida del museo dal figlio Fairuz, nei giorni del disperato tentativo di salvare i tesori della storia. Just the smile of death. You are under risk at any time. Io li ho visti e ricordo l'odore della morte. La cosa più triste è che tutto il mondo sapeva che Daesh stava per distruggere Palmira, perché americani, russi, curdi e tutti gli altri li hanno lasciati fare. Quando Daesh entrò a Palmira, l'aviazione siriana veniva 2-3 volte e poi cominciarono a venire ogni giorno, anche di notte. Questa situazione fa sentire la morte dappertutto e tutti ci sentivamo sotto il rischio di Daesh. Niente elettricità, niente acqua e ogni forma di vita era difficile. In Palmira abbiamo provato a rafforzare le protezioni del museo, ad esempio con doppie porte, grandi pietre per chiudere. Abbiamo chiuso ogni finestra e ogni buco. Noi pensavamo che un piccolo gruppo potesse provare ad attaccare il museo, rubare qualcosa, pensavamo di poter resistere, ma non pensavamo che ci saremmo potuti trovare senza protezione. E quindi provammo a mettere varie collezioni nelle scatole. Per un mese cercammo di salvare ogni giorno quanti più reperti possibili, fino alle ultime ore. Ci furono messe a disposizione queste auto dall'esercito in Palmira, mandarono 2-3 auto per spostare scatole con reperti e ora questi reperti sono a Damasco e c'è accordo di creare un nuovo archivio per questa collezione. Si sta lavorando a un nuovo archivio di reperti distrutti o rubati dall'ISIS. Per me è come se avessi provato a salvare i miei figli. Abbiamo fatto tutto il possibile. Sarebbe per me un grande piacere partecipare a progetti di restauro di Palmira per ricostruire ciò che è possibile e poterlo mostrare alla gente. Gli archeologi già da tempo si stanno interrogando su cosa e come possa essere possibile ricostruire nel sito distrutto dall'ISIS, in attesa, dopo la bonifica dalle mine dell'intera area, di poter tornare sul posto. E il tema della ricostruzione si impone con urgenza anche nel vicino Iraq, ora che i bombardamenti peggiori si sono allontanati e diffuso è il desiderio di riavere pezzi di storia e di identità ridotti in macerie dall'iconoclastia di Daesh. Un desiderio tradotto nella richiesta di aiuto all'Europa e all'Italia affidata al ministro della cultura iracheno Friad Ramzi. Now the Iraqi government and the Iraqi army, we made a survey of the archaeological sites which been. Ora il governo iracheno e l'esercito hanno effettuato una sorveglianza dei siti archeologici distrutti da Daesh. Vado all'UNESCO per lanciare la campagna Una risposta veloce. La distruzione è forte. Abbiamo la città di Ninive quasi tutta distrutta, molti siti religiosi distrutti, e non solo quelli cari ai musulmani, ma anche quelli delle minoranze curde. Tra i tesori meno noti rovinati da Daesh c'è la moschea di Al-Nuri e il minareto di Al-Abda distrutto. Ho visitato Nimrud, non Mosul, ma abbiamo pianificato di andare insieme con gli italiani nel minareto. Questi edifici, soprattutto la moschea di Al-Nuri e il minareto, sono parte dell'identità del popolo iracheno. Io, ad esempio, mi sono laureato lì. E allora, quando la gente vede questi siti in macerie, pensa che parte della loro storia e del proprio patrimonio sia stata rubata. E non è facile. Dall'altra parte, come Ebla in Siria, così anche in Iraq, con l'antica città di Ur, è italiana la più antica missione archeologica ancora in corso, che al di là delle nuove scoperte storiche e artistiche, sta aiutando il paese a riavere quell'orgoglio della propria storia, per dirla con le parole del professor Franco D'Agostino, che proprio dall'Iraq, da una città a sud di Nassiriya, manda un suo messaggio alla borsa archeologica del turismo di Paestum. Il sito di Abu Tbeira si trova a 7 km a sud di Nassiriya, e di questo sito noi abbiamo scavato alcune aree. L'aspetto più interessante che sta venendo fuori dal punto di vista storico è il periodo di passaggio tra il cosiddetto Early Dynastic e il periodo Accadi. L'Iraq che sta quotidianamente, giorno dopo giorno, cercando di recuperare il proprio passato e non solo recuperarlo ma anche valorizzarlo. Proprio con l'Iraq, l'Italia, attraverso l'associazione Incontro di Civiltà presieduta da Rutelli, sta lavorando ad un accordo per la ricostruzione concreta delle pietre degli antichi siti, oltre che alla valorizzazione attraverso l'aiuto della tecnologia. Noi puntiamo sull'Iraq in questo momento e stiamo stringendo un accordo con il governo iracheno, anche col pieno sostegno al governo italiano, il Ministero degli Esteri, il Ministero della Cultura, per intervenire in alcune aree dove, finito il conflitto e cacciata la forza terroristica dell'ISIS, di Daesh, è possibile dare una mano per far ripartire anche opportunità locali, perché non parliamo solo del turismo internazionale, non abbastanza sparuto in questi luoghi, parliamo delle possibilità di occupazione e dell'identità stessa di queste popolazioni. Quindi noi stiamo per stringere un accordo, ci auguriamo di riuscire in questo scopo, perché le prime ricostruzioni reali possano avvenire in Iraq. Noi pensiamo all'area di Nimrud e pensiamo ad alcune altre località più vicine a Baghdad, dove i danni e l'incuria sono stati gravissimi e dove sono ospitati alcuni dei siti, delle architetture e dei simboli più alti della civiltà umana. Sono anche luoghi dove tradizionalmente gli archeologi italiani sono impegnati più di altri da sempre, anche negli scavi più importanti tra Iraq e Siria, anche appunto delle operazioni di scavo sono tuttora in corso, quindi un impegno italiano anche nella seconda fase, quindi diciamo prima la scoperta, poi la ricostruzione, diventa doppiamente anche simbolico, anche in uno sforzo diciamo di conservazione dell'arte che chiama in causa ancora una volta anche la tecnologia. Perché, come anche lei ha ricordato, anche i più giovani spesso adesso si avvicinano alla conoscenza anche dell'arte, soprattutto attraverso la tecnologia. Assolutamente sì, e devo dire che noi italiani siamo i più bravi come nazione dal punto di vista degli studi, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista dell'arte del restauro, della tecnologia del restauro e delle tecnologie delle ricostruzioni possibili. Ed è questo forse lo spirito ultimo della tecnologia, servire pure a ritrovare l'arte perduta, distrutta, danneggiata o rubata, come anche quella sottratta dai boss. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. La prima istituzione italiana che viene qui a restituire, a risarcire questo luogo così violato, donandoci questa incredibile riproduzione. Commozione e solennità. A Palermo si festeggiò e inaugurò il ritorno del Caravaggio rubato nell'oratorio di San Lorenzo. La pala con la Natività rimessa idealmente al suo posto grazie ad un video ad altissima fedeltà. La tecnologia prova a rimediare in parte allo sfregio delle mafie, come alla distruzione dei terroristi, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce. E un po' come il Califfato, anche i clan di Cosa Nostra tradizionalmente hanno fatto i soldi pure col traffico di opere d'arte, come ricorda lo studioso Luca Scarlini. Tra le opere che più hanno fatto discutere, che sono entrate nelle mani della criminalità organizzata, il famoso San Francesco e San Lorenzo di Palermo, rubato nel 69, è quella più ricercata al mondo, ma poi, se si apre il capitolo archeologia, è una voragine che fa paura, anche perché è notorio che le mafie Camorra, Andrangheta e Sacra Corona Unita pagano dei ricercatori degli scavi clandestini, e spesso accade che negli Stati Uniti emergano, ad esempio al Getty Museum a Malibu, che è abbastanza famigerato da questo punto di vista, delle opere di cui nessuno sa dire da dove vengano o dove siano state scavate. Ad esempio il padre dell'ultimo cosiddetto boss, sia Matteo Messina Denaro, il padre Michele, era notoriamente un tombarolo e faceva scavi illegali. Ma anche la tecnologia va in soccorso dell'arte distrutta, danneggiata, saccheggiata o rovinata da guerre, vulcani o mafie. Stampanti 3D, ad esempio, per rimettere in piedi colonnati e templi distrutti, in attesa che gli archeologi riescano a farlo poi davvero sul campo, quando ci saranno, ad esempio, adeguate garanzie di sicurezza in Iraq. Ma nulla ridarà lo spirito della storia, commenta sconsolato Fairuz El Assad, già direttore del Museo Archeologico di Palmira, negli stessi mesi in cui il Califfato uccideva suo padre, ultimo direttore del sito archeologico. They stolen a lot of things from Palmyra and from everywhere in Iraq and in east of Syria and there is all Raqqa. Hanno rubato moltissimi reperti dalla Siria, dall'Iraq, da Raqqa, per farli arrivare in Europa attraverso la Turchia. Credo che abbiano ricevuto molti soldi dal contrabbando di reperti. Sul mio computer ho molte foto di Palmira ed è incredibile. I principali simboli sono andati distrutti. L'Arco di Trionfo, il Tempio di Bash Amin distrutto, due splendide tombe a torre visitabili distrutte. Questi erano alcuni dei principali simboli di Palmira. E quando ho ricevuto le foto, ho pensato che tutti noi, come genere umano, abbiamo perso molto con quelle distruzioni. Ora è possibile ricostruire con le tecnologie 3D. Sarà possibile fare delle copie con molti soldi, ma queste copie non potranno mai essere la stessa cosa, perché si è persa l'anima del passato e la loro identità, che è un po' la differenza di quando vedi un edificio storico, uno ricostruito o uno rifatto uguale ma con nuovi materiali. Or a building restored or rebuilt with a new things. I ritrovati della tecnologia ci permettono anche di tornare a camminare nelle strade dell'antica Pompei, rivedendo ad esempio le coperture di quelle domus andate distrutte con l'eruzione del Vesuvio. E ancora, visori tridimensionali rendono ora possibile una visita nelle terme di Caracalla a Roma, proprio come apparivano il giorno dell'inaugurazione nel 216 d.C. Cop Culture ha investito 100.000 euro nel progetto, così come ci racconta la direttrice Giovanna Barni. Che vuole appunto restituire tutto quello che con il tempo si è perduto e che purtroppo soltanto pochi archeologi, pochi specialisti della materia possono apprezzare per godere di quello che le terme di Caracalla doveva essere, accompagnato poi da tantissimi oggetti d'arte. Con questo visore, con questo sistema, l'utente potrà rivedere proprio mentre visita. È la prima volta che si mette a disposizione del visitatore uno strumento per una visione globale di quello che le terme furono un tempo mentre le sta visitando. La tecnologia permette di recuperare quello che il tempo ha anche fatto disperdere. Non è solo una ricostruzione virtuale, ma anche una restituzione filologica delle connessioni storiche che ci sono oggi fra opere conservate in diversi luoghi. E questa è una delle ricchezze dell'Italia, cioè che magari ci sono statue che venivano alle terme di Caracalla che per una storia di una famiglia, insomma, come in questo caso, si ritrovano oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli o alle terme di Caracalla, così come una delle fontane si trova a Piazza Farnese. Ecco, tutto questo viene recuperato nella visita. E appunto, in un filo diretto col Museo Archeologico di Napoli, altri visori fanno vedere tutto quello che nel tempo attorno alle statue di quel sito si è perso. Così, racconta il direttore del MAN, Paolo Giulierini, facciamo avvicinare i più giovani all'arte antica. Io dico sempre che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli conserva le principali collezioni pompeiane di tecnologia del mondo antico, strumenti chirurgici, strumenti di adduzione idrica, chiavi, eccetera. E contemporaneamente conserva i primi fumetti del mondo antico, che sono quelli graffiti sui gli edifici pompeiani, poi distaccati. Quindi non poteva non nascere da qui una riflessione che riguardasse da una parte la continuazione delle tecnologie anche nel mondo attuale e dall'altra anche un tipo di comunicazione che paradossalmente gli antichi utilizzavano, come il fumetto, e che poi noi abbiamo voluto ritrasporre nel nostro campo veicolando il museo attraverso cartoon e attraverso nuove forme di comunicazione. Avete già dei riscontri rispetto all'effetto che queste nuove forme di comunicazione e quindi anche l'uso di device tecnologici hanno su un pubblico forse più giovane? Sì, abbiamo realizzato ad esempio nell'ambito delle tecnologie il primo videogame di un museo archeologico al mondo, un videogame che è stato scaricato e da oltre 1.300.000 persone in tutto il mondo, soprattutto in Cina, e che in qualche modo costituisce una nuova forma di veicolazione dei contenuti classici. Inoltre abbiamo veicolato il museo attraverso il progetto Obvia, che prevede la trasposizione, la comunicazione di un istituto non più con le forme canoniche, ma attraverso altre modalità d'arte, la letteratura, i cartoon, cortometraggi d'autore, in tutto, diciamo così, Napoli, nelle principali infrastrutture italiane, come Frecciarossa, come l'aeroporto di Capodichino, che ha accolto un itinerario archeologico. Ecco, tutta questa modalità di utilizzare strumenti innovativi ha permesso di far riverberare i contenuti del museo, che sono contenuti importanti ma che a prima vista in qualche modo tendono a far arretrare, diciamo, la persona che vuole avvicinarsi all'arte perché sono estremamente, diciamo, importanti e paludati, ecco, hanno contribuito, dicevo, ad avvicinare un grande e numeroso pubblico. E non è un caso che oggi celebriamo i 500.000 visitatori al museo, che sono un record mai raggiunto da questo istituto. L'ultima domanda, direttore, è questo. Leggo dell'arrivo alla MAN, al Museo Archeologico di Napoli, anche di visori tridimensionali come quelli che stanno permettendo a Roma di riattraversare le terme di Caracalla. Sì, questo è un atto dovuto, in quanto la possibilità che ci dà oggi la tecnologia di rivedere in un totum simul gli antichi ambienti delle terme di Caracalla, sia attraverso il monumento, sia attraverso i gruppi scultori che lo decoravano, e quindi il toro farnese, l'ercole farnese, consentono di fare una medesima operazione sia qui a Napoli, dove sono presenti le sculture, sia appunto a Roma, dove è presente il contenitore. A questo punto, ecco, queste nuove forme consentono in maniera semplice di far comprendere al visitatore che in origine quel contesto era collocato in un altro modo e che anche le statue, come le persone, si possono spostare in seguito ad accadimenti, a permute o ad acquisti. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti.